as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi ad Il Pane e le Rose, la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici. Abbiamo avuto una serie di puntate in cui abbiamo affrontato il contratto nazionale, lo affronteremo anche adesso che abbiamo le votazioni in tutte le fabbriche, però urge oggi parlare di un'avvertenza, e in questo caso parliamo di un'avvertenza di un'azienda che a noi è molto cara, dove ci sono compagni della nostra area sindacale, qua vicino a Modena, parliamo della Maserati, che è in una situazione davvero critica. Diciamo tutto il gruppo Stellantis, ieri sera avete che ha visto presa diretta, visto la situazione di Stellantis, insomma, soprattutto in Italia le condizioni sono veramente difficili. C'è stato un presidio la settimana scorsa in cui ho partecipato, mi hanno chiamato i compagni e ho avuto la possibilità di intervistare Giuseppe Violante, che è il delegato della FIOM, delegato storico della Maserati, il più votato delegato in Maserati. Abbiamo intervistato e lui ci ha raccontato un po' la loro vicenda e le motivazioni del loro presidio. Siamo andati davanti al comune, abbiamo incontrato Colla e insomma, ascoltiamolo. Prima ci sarà un pezzo. Ricordiamo che lui è il batterista della banda popolare di Veglia Rossa, ascoltiamo un bellissimo pezzo della banda e poi ci sentiamo l'intervista a Giuseppe Violante e dopo per le conclusioni. Compagno, rischi al tuo soldo, che non è più un soldo, il posto dove dormi che ci piove, è il posto di lavoro che perderai domani. Aiutate mentre ci aiuti. Ecco qua, siamo qui a Modena con Giuseppe, il delegato della FIOM della Maserati. Siamo a questo presidio, Maserati in cassa integrazione, c'è il problema della cassa integrazione. Questa non è la prima mobilitazione che vediamo, che partecipiamo. Vogliamo, insomma, raccontaci un po' quello che sta succedendo in Maserati. Allora, questa è un'altra mobilitazione che si va ad aggiungere altre iniziative pregresse all'interno di un percorso che tutti insieme ai lavoratori Maserati abbiamo messo in atto. Oggi siamo per l'ennesima volta, questo è il secondo incontro che noi abbiamo con le istituzioni, e non è un caso che questo incontro con le istituzioni avvenga dopo lo sciopero importante che noi abbiamo fatto l'8 marzo davanti ai cancelli, dopo aver avuto un incontro con l'azienda dove ci hanno dichiarato per la seconda volta l'ennesimo mese di cassa integrazione a 0 ore. Quindi dopo febbraio i lavoratori hanno praticamente di fronte un altro mese come quello d'aprile, con un utilizzo massiccio di cassa integrazione, quindi un ennesimo mese dove si fa, diciamo, una cassa integrazione a 0 ore. E la prospettiva per tutto il 2024 sicuramente non promette bene. Abbiamo di fronte un mese di maggio che molto probabilmente si faranno un paio di settimane di lavoro, però ci può essere la possibilità concreta che anche sul mese di giugno si faccia cassa integrazione a 0 ore, quindi praticamente non si entrerà proprio in fabbrica. Quindi abbiamo due elementi di fronte che comunque dobbiamo affrontare e dobbiamo cercare di snocciolare anche rispetto alle prossime iniziative. Quello sicuramente dell'importante perdita salariale, perché si perde dai 400-500 euro al mese. Sappiamo benissimo come funziona la cassa integrazione a 0 ore, dove non maturi né ferie né rate, tredicesima, e quindi la perdita è molto forte, è molto importante per quanto riguarda il salario. E poi la questione delle prospettive industriali: è uno stabilimento questo qua che fino a qualche mese fa lavorava a pieno regime, e adesso si trova di fronte a un 2024 sicuramente molto difficile, ma anche il 2025, come anche i prossimi anni, non si sa che cosa produrre. Hanno parlato di una vettura elettrica, però sappiamo benissimo il mondo dell'elettrico che difficoltà sta mettendo in campo, avendo appunto, insomma, ci sono stabilimenti che già stanno producendo l'elettrico, e sappiamo benissimo che difficoltà stanno attraversando, per cui crediamo che questo dell'elettrico non sia una soluzione immediata sicuramente. Dopodiché c'è anche il problema che da qui all'elettrico cosa produrrai, c'è un buco produttivo che comunque va gestito, perché l'elettrico sicuramente non lo produrrai subito, ci vorranno i tempi che ci vogliono. Dopodiché la prospettiva industriale è molto molto incerta, è un indicatore spia, la Maserati di Modena, un indicatore spia anche di quello che sta attraversando tutto il gruppo Stellantis, perché non ricordiamoci di quello che stanno vivendo stabilimenti come Cassino, Pomigliano, Mirafiori, dove addirittura hanno chiamato la solidarietà in quest'ultimo periodo, per cui le difficoltà che sta vivendo tutto il gruppo Stellantis, ma con esso anche l'indotto, sono palesi e sono davanti agli occhi di tutti. Insomma, praticamente voi la cassa integrazione non vi hanno fatto, non c'è un accordo in cui vi riconoscono i ratei, la tredicesima, tutte queste cose? Il punto è proprio questo, che noi nei diversi incontri che abbiamo avuto con l'azienda abbiamo chiesto più volte, questo ovviamente per conto della FIOM in primis, la maturazione dei rati e l'integrazione salariale. Dopodiché è chiaro che queste sono rivendicazioni che vanno portate avanti con forza, perché conosciamo bene quali sono le dinamiche all'interno del gruppo Stellantis, ex FCA, ex Fiat, conosciamo bene la politica sindacale che ha messo sempre in atto uno stabilimento come Stellantis, per cui il percorso è ancora molto difficile e molto lungo. È chiaro che quando arriveranno le prime buste paga dei lavoratori a dispetto della cassa integrazione a 0 ore, si inizierà a fare veramente i conti oggettivamente e in modo concreto con la forte perdita salariale, appunto. Oggi siete qui in comune, sarete ricevuti dal sindaco? Oggi sì, siamo per la seconda volta, abbiamo questo incontro con le istituzioni, con il sindaco, nonché con il presidente, cioè con Colla, per appunto discutere lo stato dell'arte dello stabilimento Maserati di Modena. Si preannuncia all'orizzonte una possibilità da parte delle istituzioni di dare una parte del PNRR, quindi soldi pubblici, a un'azienda come la Maserati. Però è chiaro che questa è una cosa che va discussa, noi come delegati lo faremo presente all'incontro, dove sono soldi, per l'ennesima volta si offrono soldi pubblici a un'azienda come la Maserati, e poi è paradossale come un'azienda come questa abbia fatto profitti record fino all'anno scorso, ma continua a farli. Quindi è veramente paradossale e bizzarra questa situazione. Dopodiché, se veramente le istituzioni vogliono offrire una parte di questi soldi, a meno che ci siano dei dati concreti, certi, rispetto alle prospettive industriali di questo stabilimento, altrimenti sembra veramente più paradossale ancora la situazione. Il sospetto che si ha è che Stellantis guardi molto di più la Francia, addirittura ai paesi dell'est, che all'Italia. La sensazione che si sta avendo è che c'è stato uno spostamento da quando è diventato Stellantis, insomma. Non so se questo può influire su quello che sta accadendo. Questo sicuramente è un dato di fatto e di fronte a cui tutti dobbiamo fare i conti, però c'è anche da dire che quello che stanno vivendo ora i dipendenti del gruppo Stellantis non è stato calato dal cielo in modo improvviso, è frutto di una politica industriale degli anni precedenti, anche da quando, nel momento in cui è stato messo Marchionne a capo di questa azienda. Quindi noi come FIOM, come delegati FIOM, l'abbiamo sempre denunciato questa politica industriale fallimentare. È chiaro che nel momento in cui tutti i governi che si sono succeduti in questo paese, dalla sinistra a destra, non avendo mai affrontato il problema seriamente, è chiaro che adesso ti ritrovi a una condizione sine qua non da cui non puoi prescindere e devi fare i conti con la realtà dei fatti. Dopodiché è vero che Stellantis sta investendo all'estero e non in Italia. Certo, poi da quello che mi risulta lo Stato francese ha delle azioni, ha una piccola una percentuale su Stellantis, se non mi sbaglio. Certo, questo è un altro dato di fatto, il fatto che il governo francese abbia una parte di azioni importanti nel consiglio di amministrazione di Stellantis, parliamo del 7-8%, dove rispetto a cui hai anche un potere decisionale, un potere amministrativo. Di fronte invece alla situazione italiana, dove il governo italiano non è completamente assente, certo, ma è anche completamente assente dal poter prendere decisioni rispetto a politiche industriali subito nel prossimo periodo. Cioè, si parla di investimenti sull'elettrico, però non si chiede ancora conto di che tipo di investimenti vuole fare il governo e cosa voglia fare Tavares con il gruppo Stellantis rispetto a questi nuovi investimenti. Quindi ci troviamo di fronte sicuramente a un cinepraio di parole e di mancanza di dati di fatto. Dunque manca un piano industriale, mancano delle vetture nuove da produrre, almeno nel sito di Modena, e questo vi preoccupa tantissimo. Inoltre c'è anche una non volontà di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, perché una cassa integrazione così, senza indennizzo, senza maturazione di rate, i tredicesima e TFR e tutto, è un problema enorme. Allora, e noi denunciamo da molto tempo il fatto che lo stabilimento di Modena abbia sempre avuto un solo modello di vettura, che comunque sarebbe l'MC20, è una macchina super sportiva che ha un costo importante, si parla da 250 e 300 mila euro, ed è solo lo stabilimento di Modena che produce questo segmento di vettura. Ma è paradossale e bizzarro il fatto che dopo un anno e mezzo questa vettura non abbia più ordini. Cioè, non abbiamo mai vissuto una situazione del genere per quanto riguarda lo stabilimento modenese Maserati. Abbiamo sempre prodotto vetture che hanno sempre offerto un paracadute produttivo di almeno 10, 12, 13 anni per quanto riguarda questo segmento di vettura. Quindi ci sono tante domande che si pongono i lavoratori, cioè, ci poniamo anche noi. Lamborghini, esattamente, benissimo. Esattamente. Di fronte 500 operai, esatto, di fronte a realtà industriali simili come la Lamborghini e la Ferrari, la Maserati di Modena è l'unica realtà industriale che sta vivendo queste difficoltà industriali, questo appunto calo di ordini sul mercato. Poi io dico sempre, è un'azienda che non è in crisi, quindi il fatto che abbia una crisi di mercato è vero, ma il fatto che abbia una crisi economica non è vero, cioè la crisi economica e crisi di mercato non è un'equazione, certo, che sussiste. Abbiamo un'azienda che ha fatto record, profitti record stellari, 2023 ha chiuso con i profitti più alti di sempre, parlo della Maserati di Modena, infatti sul giornale locale è stata tra le prime 10 aziende che ha appunto avuto ricavi molto importanti, pare che sia al secondo posto dopo la Ferrari. Dopodiché è anche vero che è stato un 2023 che l'azienda Maserati ha prodotto a pieno regime, spremendo molto i lavoratori, quindi i profitti si sono alzati, e poi è chiaro, ti trovi di fronte al 2024 dove c'hai un utilizzo massiccio della cassa integrazione, una forte perdita salariale, quindi si ritorna alla famosa logica socializzare le perdite e privatizzare, certo, i profitti, certo, dove quando c'è da guadagnare loro guadagnano e cercano di guadagnare sempre di più, e quando si perde cercano appunto di chiedere l'intervento dello Stato, della cassa integrazione, quindi dei soldi pubblici per sopperire a quelle perdite. Quindi questa è una cosa di cui con i lavoratori abbiamo sempre discusso, per questo diciamo noi continuiamo il percorso di lotta soprattutto per chiedere la maturazione dei ratei e l'integrazione salariale, perché è giusto che ci sia questo tipo di rivendicazione, e al momento i lavoratori sono compatti su questo tipo di rivendicazioni immediate e concrete. Poi la questione prospettiva industriale dello stabilimento modenese è chiaro che è un problema, è una discussione molto più complessa e va generalizzata sicuramente, e cercare di fare anche un percorso con le altre realtà industriali dello stabilimento del gruppo Stellantis, perché se la lotta non viene generalizzata è chiaro che la lotta dei lavoratori maserati non può essere solo dei lavoratori maserati, ma certo, va allargata. Questo anche dal punto di vista di rivendicazioni salariali come la maturazione dei rati e l'integrazione salariale. Ed è giusto che la FIOM a livello nazionale si faccia portavoce di questo tipo di rivendicazione. È giusto andare a chiedere a questa dirigenza, a questi manager, che è giusto dare quello che spetta ai lavoratori, perché questa crisi di mercato non l'hanno creata i dipendenti e i lavoratori del gruppo Stellantis, e quindi non dell'azienda Maserati. Dunque appunto, l'appello è a chi oggi coordina il gruppo Automotive, in questo caso Samuele Lodi, esatto, che bisogna che la lotta sia di tutti. Che vada allargata, e soprattutto che siamo più chiari per quanto riguarda la richiesta di quel tipo di rivendicazioni, perché c'è un'importante perdita salariale da questo momento in poi in avanti che in qualche modo deve essere gestita, perché quando ti trovi di fronte al fatto che i lavoratori non possono più pagare il mutuo, non possono più pagare l'affitto, non possono più pagare le bollette, perché si parla di dati oggettivi concreti, sono questi gli argomenti di cui dobbiamo cercare di discutere con i lavoratori e capire come gestire insieme a loro, e poi anche arrivare a dire che fra poco i lavoratori non si possono neanche più permettere di andare in vacanza, quindi è un problema oggettivo che fra poco verrà fuori, e molto probabilmente noi avremo, e parlo del territorio modenese, parlo della situazione Maserati, perché conosco i lavoratori Maserati, potremmo avere di fronte una bomba sociale da gestire. Ok, ti ringrazio Giuseppe, saremo sempre con voi, Radio Città Fucico e Pagina Rosa sono sempre solidali con i compagni della Maserati e di tutto il gruppo Stellantis. Grazie mille, abbracci resistenti a tutti. Padrone, non vado i soldi, dice sempre fatica, e noi ci mangiamo limone per due soldi caccerà, per due soldi caccerà. O padrone, oggi è venuto, ci voleva parlare, a porta che zoppa tutte cose, e una botte ci ha guidato là, e una botte ci ha guidato là. paradiso non si può sta, nemmeno la morte stanna buono, manco limone c'è putimmo magna. Abbiamo ascoltato Giuseppe Violante, delegato della FIOM della Maserati, l'intervista che abbiamo fatto durante il presidio che è stato organizzato davanti al comune settimana scorsa. Cosa dire? Quello che serve assolutamente è un coordinamento delle aziende di Stellantis. Direi che c'è molta divisione sindacale purtroppo all'interno di Stellantis, c'è un problema serio. Purtroppo la spaccatura del CCSL, il contratto specifico, quello che fece Marchione quando uscì fuori da Federmeccanica, ha complicato le cose. C'ho i sindacati di base, c'ho i sindacati corporativi, c'ho i sindacati gialli cosiddetti, dei quadri. È una situazione sindacale davvero difficile. Purtroppo la FIOM non è forte in Stellantis, come lo è in tante altre aziende, in maniera meccanica, e questo è un problema serio, serissimo. Non si riescono a coordinare i delegati, non c'è tutto il consenso che servirebbe in questo momento, ma certamente si stanno muovendo tantissime cose, si stanno succedendo tra Pomigliano, anche la Maserati, i lavoratori vogliono lottare, i lavoratori non sono più disposti ad accettare qualsiasi cosa Stellantis faccia cadere dal cielo. Anche, c'è una forte repressione dei militanti più combattivi, ricordiamo i compagni che sono stati licenziati in Sevel, a Cassino. La situazione non è facile, ma la Maserati può essere un punto di partenza, come lo è anche le lotte di Pomigliano, sono stati un altro punto di partenza, sperando che si allarghino e portino in tutti gli stabilimenti Stellantis una voglia di lottare, così come è successo negli Stati Uniti d'America. La situazione è molto diversa, qui dobbiamo lottare per poter salvare le fabbriche, ma la lotta più o meno è la stessa. Bisogna essere alternativi, forti, rivoluzionari e avere delle proposte che i lavoratori possono capire, accettare e partecipare nelle battaglie, solo così si può vincere. Ecco, un augurio a tutti i compagni di Stellantis, iniziando dai compagni della Maserati, per le prossime lotte saremo sempre con loro e continuiamo su questa battaglia. A presto. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución!